Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, domani a Lampedusa il presidente della Commissione Europea Barroso, accompagnato da Premier e Vice Premier Letta e Alfano, che come avete sentito qualche istante fa da Simone Spezia, ha raggiunto l'incontro di Bruxelles. Bruxelles e Lussemburgo, oggi sedi di incontri a livello europeo, che riflettono anche sulla proposta lanciata dalla commissaria europea Cecilia Malmström e che ci presenta in questa intervista il suo portavoce Michele Cercone, è stato intervistato da Maria Luisa Pezzali. La commissaria chiederà ai ministri degli interni dell'UE di dare il loro pieno sostegno politico e pratico per organizzare una vasta missione Frontex di identificazione e soccorso in mare che copra l'intero arco del Mediterraneo del Sud, da Cipro fino alla Spagna. Questa missione, insieme alla fase operativa di Eurosur, rappresenta una prima possibile risposta concreta nel breve termine ai problemi che molti paesi incontrano nella sorveglianza delle frontiere, nell'assistenza alle barche di immigrati nell'arco del Mediterraneo. Lei ritiene che il regolamento di Dublino possa essere messo in discussione? La discussione sul regolamento di Dublino è durata 4 anni e si è conclusa 2 mesi fa, quindi mi sembra poco realistico che ci sia una riapertura del dibattito. E tra l'altro, parlando di Dublino, parliamo del fatto che i richiedenti asilo vedono esaminata la loro domanda nel primo paese in cui la pongono. Se guardiamo le richieste di asilo in Europa, in Italia nel 2012 ne sono state presentate 17.500, ben lontano dalle 70.000 della Germania e le 60.000 della Francia, ma limitandoci a paesi con una popolazione più ridotta, le 44.000 della Svezia, le 36.000 del Belgio, della Gran Bretagna e addirittura le 18.000 quasi dell'Austria. Quindi non credo che il dibattito su Dublino in questo momento sia il vero punto della questione. Michele Cercone, il portavoce della commissaria europea Cecilia Malmström. Questo dunque sul fronte della Commissione. Ieri si è anche mobilitato il Parlamento, una fiaccolata in particolare ieri sera a Strasburgo per ricordare la tragedia. Vi hanno preso parte gli europarlamentari, tra cui il presidente dell'emiciclo Martin Schulz, che ha detto: il disastro davanti alle coste italiane è un disastro per tutti. Il Parlamento rappresenta il popolo europeo nella sua interezza. Tra i promotori della fiaccolata il vicepresidente Gianni Pittella, che al microfono di Sergio Nava anticipa i possibili risultati della risoluzione che Strasburgo voterà a fine ottobre sul tema della migrazione. Penso che si deve andare verso una posizione chiara che dice: e assumiamoci le responsabilità, i governi facciano parte per solidarizzare concretamente con Spagna, Grecia e Italia. Andiamo verso un accordo di partenariato con i paesi alla sponda sud del Mediterraneo, in modo che ci sia un flusso migratorio programmato e vi siano interventi anche europei di sostegno ai paesi rivieraschi della sponda sud, e sostanzialmente si affermi un principio che è quello della solidarietà, perché l'immigrato non è un nemico ma un nostro fratello, ovviamente nell'ambito di una politica che tuteli anche la sicurezza e la lotta all'illegalità, che a volte è portata avanti da qualche piccolissima Francia di immigrati. E su questo contate di convincere anche i vostri colleghi in Nord Europa? Io penso di sì. Una notizia appena battuta dalle agenzie: il Papa riceverà il prossimo venerdì, quindi l'11 ottobre, il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Il tema, senz'altro, ci sarà anche l'occasione appunto per parlare di questa tragedia, in particolare appunto delle vittime del naufragio di Lampedusa. Con questo è tutto. Europa 24 torna domani poco dopo le 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.